Siamo con Dario Albertini, regista del film Manuel, in uscita in sala il prossimo 3 maggio. Dario, benvenuto. Salve, salve, grazie, grazie a voi per l'invito. Lo raccontiamo brevemente? Sì, raccontiamo. Intanto volevo ringraziarti Federico perché mi hai sempre dato spazio quando, insomma, nei miei documentari precedenti, quindi ci tenevo tantissimo appunto, ecco, a questa intervista con te perché ecco, ti è stato sempre molto prezioso nei tuoi spazi, quindi ti ringrazio personalmente di questo, Mi fa volevo. piacere, mi fa piacere. Non so dove iniziamo, perché insomma sono successe tante cose. Beh, guarda, intanto io direi per chi ci ascolta, brevemente la trama. Sì, allora Manuel era la storia di un ragazzo di 18 anni che è cresciuto in una casa famiglia. Film inizia 2 giorni dall'uscita e che appunto deve affrontare l'uscita e deve entrare, quindi uscire dalla casa famiglia e entrare nel mondo reale. Ha una mamma in carcere e viene chiesto a lui appunto di, cioè lui rappresenta per questa mamma a un certo punto la possibilità di libertà e quindi se lui insomma dimostrerà alle autorità una serie di cose e presenterà una serie di requisiti, può portare la mamma agli arresti domiciliari. Questa è la Ok, trama proprio a grandi linee. sì. E quindi poi a un certo punto lui si troverà davanti a un bivio, quindi da una parte appunto la propria libertà, ci sarà un suo amico del passato che tornerà e insomma gli presenterà un futuro fatto di sesso, droga e rock and roll in Croazia. E dall'altra parte invece appunto questa pratica da sbrigare della mamma e appunto la possibilità di conoscere la mamma che non ha mai vissuto, ecco, quindi è come se fosse un'estranea, quindi questo è il bivio della crisi di mamma. Sì. Dario, l'origine di questo progetto? Beh, l'origine l'abbiamo raccontata con te in passato, perché Sì. questo lavoro nasce appunto da un documentario La Repubblica dei Ragazzi che avevo realizzato nel 2015, 2014-2015 e appunto lì nel documentario raccontavo la nascita della struttura, di come si è creata nell'immediato dopoguerra, di quello che poi ha fatto negli anni, di come si è evoluta questa struttura che accoglieva accoglie i ragazzi privi di sostegno familiare. E appunto lì raccontavo la nascita, la struttura, come questi ragazzi vengono accolti, come rimangono, però in quel documentario non raccontavo l'ultima fase, quella dell'uscita. E quindi all'inizio avevamo deciso di raccontarla magari in un documentario. Poi avevo seguito il vero Manuel, perché esiste un vero Manuel, e mi sembrava un po' una violenza rimettere una macchina da presa addosso a qualcuno che stava assaporando la libertà in quei momenti, quindi ho lasciato un po' andare. Nel frattempo ho fatto incontri al mercato e però poi dopo ci sono tornato. Insomma, la voglia era quella di raccontare questa fase con Simone Raducci, abbiamo scritto una sceneggiatura e poi da lì, insomma, il film. Come ti sei trovato nel passaggio alla finzione? Ma guarda, in realtà mi sono trovato. Ho sofferto un po' tutto il baraccone del cinema, ti dico la verità. Sì. Io ho sempre fatto i miei documentari in modo molto, molto, insomma, personale, indipendente. Non avevo neanche il fonico, quindi io la mia macchinetta da presa e via, ho sempre montato io e tutto quanto. Di qua c'avevo una troupe, quindi ecco, a livello proprio tecnico, devo dire che un po' all'inizio mi sono trovato in difficoltà. Per quanto riguarda il passaggio come linguaggio, devo dire che in mano abbiamo cercato, anche con i collaboratori, personalmente ho cercato di stare il più possibile attaccato a quello che avevo fatto fino a quel momento, quindi al reale. Ho fatto un po' un percorso al contrario, mentre nei documentari cercavo di portare a una forma più cinematografica in un professionista, di qua avevo dei professionisti come appunto il ragazzo che tette la mano della Lattanzi, la Francesca Antonelli, Renato Scarpa, Alessandro Di Carlo, insomma, degli attori protagonisti, ho cercato di sottrarli e e cercando il più possibile di portarli vicino a qualcosa di più reale, anche con i dialoghi, con la scelta di non far leggere troppo la sceneggiatura e di improvvisare molto sul set, e anche l'idea, insomma, la scelta di faticosa di girare tutto in sequenza cronologica, quindi dalla prima all'ultima scena, in modo che, appunto, soprattutto per il personaggio principale, per Andrea Lattanzi, di entrare nella storia e quindi di vivere giorno dopo giorno. Ecco, questo mi ha fatto sì che, insomma, mi sentissi più possibile vicino a quello che avevo sempre fatto, il documentario. E rispetto al passaggio della distribuzione? Guarda, io devo dire che, allora, il film è stato prodotto da Angelo Barbagallo, Angelo e Matilde, Sì. la BB Film. Allora, Angelo io lo conosco da molto tempo, lui aveva seguito il mio percorso da documentarista, e quindi è stato tutto anche molto, molto naturale. E quando abbiamo finito il film, che abbiamo poi presentato l'anno scorso a Venezia, mi ricordo Angelo mi disse: non ce ne frega niente della distribuzione, noi siamo delle belle senza distribuzione, volevamo far vedere i nostri amici proprio tranquillissimi, anzi lui era proprio molto tranquillo, ha detto: abbiamo fatto il film che tu volevi fare, siamo tutti contenti, quindi adesso non pensiamo alla distribuzione, facciamo conoscere questo film. E infatti è andata così, che per assurdo il film è stato preso dalle PAC, che è un distributore francese, e quando ancora in Italia non avevamo nessuno. Quindi in realtà il film è uscito il 7 marzo in Francia, e tra l'altro ancora in sala, qualche sala in Francia, ma non avendo una distribuzione qui, quindi è stato pure lì un percorso al contrario, cioè paradossalmente sembrava come se avessimo, insomma, un film straniero, no? E quindi poi è arrivata la Tucker, una distribuzione, insomma, che ha sempre avuto un occhio di riguardo per progetti indipendenti, e siamo felicissimi perché è veramente perfetta per noi. È una piccola ma molto curata come distribuzione, e ha seguito appunto il percorso che stavamo facendo fuori, insomma, e sarà lei che appunto dal 3 ci distribuirà. Però ecco, tutto molto tranquillo, tutto molto naturale, devo dire. Questo sono molto felice perché, ecco, appunto, venendo dal documentario, tutto un altro percorso, tutto un altro mondo. Devo dire che in questo non ho trovato la classica, no, il classico scalino che puoi trovare, appunto, facendo un film di finzione, quindi distribuzione, il problema delle sale, delle qua. No, siamo tutti molto rilassati in quello. Senti, rispetto a questa, tornando al film, rispetto a questa storia ai margini, cosa ti premeva far emergere? Ma guarda, come ti dicevo, io sono stato 2 anni e mezzo all'interno di questa Repubblica dei Sì, Ragazzi, che è sì. a Civitavecchia, a 70 km da Roma, una realtà storica, e quindi in quei 2 anni lì ho vissuto come ragazzo, ho visto tantissime realtà, e appunto, come ti ripeto, non riuscivo a raccontare nel documentario. La fase dell'uscita è una fase molto, molto, molto particolare e delicata. Sì. I ragazzi vivono, è un po', no? Passano anni pensando proprio al giorno dell'uscita. Quindi, diciamo, in realtà poi ci hanno raccontato tutto l'ex direttore, insomma, tutto ci ha raccontato tantissime storie, abbiamo visto anche tanto materiale d'archivio. A noi quello che ci raccontava, insieme a Simone Ranucci, che con me ha scritto il film, era il momento di crisi. E io lo dico sempre, cioè proprio il bivio, quel momento lì, no? Sì. Cioè, viene sempre raccontata, cioè il mondo della periferia, e questi ragazzi, case famiglie, sono sempre ragazzi che vengono raccontati, a me, a mio avviso, no? Facendo anche un po' una sorta di, come dire, di indagine, di studio, di ricerca. Sempre come qualcosa al limite tra legalità e illegalità, no? Lo vediamo molto su queste serie televisive che vanno per la maggiore, cioè sempre molto. Invece, in realtà, vivendo là dentro, quindi avendo fatto proprio esperienza sul campo, devo dire che ci sono tantissimi ragazzi, tantissimi casi, questo è un termine pedagogico, andati a buon fine come mano. Quindi il fatto che un ragazzo di 18 anni entri in crisi davanti a al problema che da una parte la sua libertà, dall'altra parte la mamma, cioè il fatto che in crisi, secondo me qualcuno a monte ha fatto un buon lavoro e c'è una testa che sta pensando in quel momento. Quindi volevamo raccontare in sostanza Ok. questo, cioè che mi premeva proprio. Sì. Senti, per seguire il film ci dai dei riferimenti web? Allora, guarda, su questo sì, siamo molto indipendenti, effettivamente, no, però allora, sui vari Facebook, abbiamo un Facebook che la produzione segue, che è Ok. Manuel Movie Albertini, quello è un indirizzo dove ci sono tutti gli aggiornamenti, oppure sempre la pagina Facebook di Tucker Distribuzione, Sì. dove lì troverete. Insomma, a breve manderanno, scriveranno anche i cinema dove verrà proiettato il film, Perfetto. oppure la pagina di BB Film Cinema e TV. Perfetto. E adesso è questo. Allora, ricordiamo Manuel in uscita in sala il 3 maggio. Dario, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Viva il lupo e grazie, grazie veramente di cuore per tutto il lavoro che fai, che è molto prezioso, Federico. Grazie, Grazie. grazie a te. Grazie, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao.